Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Portaci dove vuoi, verso le tue conquiste. Dove tu arriverai, sarà la storia di tutti. No, io veramente volevo quella là più allegra. Ma cos'è sta tristezza? Non lo so, cioè, abbiamo anche recuperato questo, non è che posso fare mica... Capito, ma cioè, dovrebbe essere una... Sì, non è colpa mia, c'è anche quell'altra... Sono quella dell'Inter più triste. No, questa è quella che avete registrato dopo l'eliminazione in Champions col Bayern. Adesso no, ho capito. No, non c'entra quella lì. No. Questa quella è registrata prima, molto tempo fa, no? Che tristezza. No. Ma è tristissima. Ma sono i giocatori che cantano? Ho paura di sì. Ah, ecco, infatti, mi sembrava. Sì, sì. Secondo me questo qua è uno scherzo che mi ha fatto Luca Cancellara, tra le altre cose, perché tra tutti gli inni della Juventus mi ha messo ovviamente quello più triste, più in triste, assoluto, cioè, triste. Capito, no? Vabbè, comunque, invece è festa perché grande. La Juve, la prossima settimana, ecco, sempre qua allo Juventus Stadium, in mezzo c'è il turno infrasettimanale. Vai. Juventini, la Juve, anche tu, dai. No, ma perché che la Juve, la Juve, la Juve, la Juve. Ma voi Juventini non siete superstiziosi, eh? No, niente, perché siete già lì a un quarto d'ora dalla fine, col Palermo che lotta per non retrocedere, che state già festeggiando. Scusa, bandiere mi tricolore. Mi piace questa, zitto un attimo. Sarà. Campo per la ripartenza, Boateng, la pressione di Boateng Vives, Milan. Dice di aver toccato il pallone. Ti dico che il primo messaggio che ci è arrivato, i due su Rai 2, i giornalisti sportivi si uniscono alle caccate dei conduttori, e poi prosegue, questo è il primo SMS che ci è arrivato al 349-238-6666, ecco, chiederei anche degli ascoltatori che non siano gli ascoltatori di Luca Gattuso, ecco, voglio dire. No, di Luca Cancellara, per favore. No, ok, Luca Gattuso, scusa, sono tuoi questi qua. No, i miei ascoltatori stanno già dormendo perché per loro intanto tiro del Palermo, perché il Palermo ci crede ancora, e nel frattempo noi possiamo raccontare così velocissimo anche tutti quanti i vari... C'è Quagliarella? Sì. Quagliarella al posto di Vucinic nel frattempo della Juve, perché la Juve ci crede, mentre l'Atalanta attacca. L'Atalanta sta perdendo 2-0 in quel di Parma, un risultato tutto sommato inaspettato. Vabbè, vediamo, possiamo gli altri dare risultati. Sì, così, il Catania vince 3-0 sul Siena, risultati un po' strani. Vabbè. Genoa-Pescara 4-1, questo non è per niente strano. La Juventus vince con il classico rigore, visto che non riusciva a segnare su azione, sul Palermo. 1-0 della Juve sul Palermo. Sì, 6-0. Respirare, non è che no, sto respirando. Poi mi svieni qui sul microfono, non è bello. Dai, allora, settimana prossima inizieranno gli internazionali di tennis a Roma, e giustamente la Lazio ha voluto festeggiare questo inizio con il primo set contro il Bologna. Lazio 6, Bologna 0. Milan-Torino è 0-0, è ancora fermo, è entrato Pazzini nel Milan, quindi sta giocando con Pazzini e Balotelli. Il Parma sta vincendo 2-0 sull'Atalanta con gol di Parolo e Biabiani. Ricordiamo che alle 12.30 si era giocata la partita più importante della giornata, sia Udinese-Sampdoria, con l'Udinese che aveva battuto la Sampdoria 3-1 grazie a una doppietta di Natale. Ecco, sai che ti ho perso da quando hai iniziato a dire il primo risultato? Lo so, perché ti distrai, tu sei rimasto fermo alla... Tu fai la macchinetta, così basta dire le cose, devi convincere la gente di quello che è accaduto. Sono convinti. Non so, vediamo Luca. Eccoci, buon pomeriggio. Sì, grazie Luca per aver messo il pezzo, l'inno più triste della storia della Juventus. Cioè, hai capito? Allora dovete deciderlo meglio. No, più che altro ce ne sono altri 18 che tu non mi hai, tra l'altro non mi hai neanche segnato. Cioè, hai fatto apposta per mettermi l'inno tristissimo. Dove sei lì a gozzovigliare in questo momento? Allora, mi trovo oggi pomeriggio, per caso mi trovo in Piazza Castello, in centro a Torino, già accerchiato da qualche centinaio di tifosi che stanno attendendo la finale della partita, ovviamente l'esito del campionato. Beh, lì è già fatto. Il campionato ormai era chiuso da 3 mesi più o meno. No, questo è quello che dici tu, sono cose che dici tu, noi non siamo d'accordo, è stato un campionato difficile. Ma com'è difficile? Squadre ovviamente agguerrite nei confronti della Juventus, già campione d'Italia. Dalla prima giornata, già campione d'Italia. Esatto. Senti, poca gente quindi, non ci credono i tifosi juventini, cioè a quest'ora juventini tutti in strada, giù con le macchine, dai a Torino. Tanto c'è ancora la partita. Ma no, ma che partita, dai, tutti in strada, anche a Milano, a Roma, dappertutto, a Napoli. Guarda che... secondo me il problema vero, ecco, guarda, stava per arrivare adesso così il 2-0. L'1-1? No, il 2-0 della Juventus. Esatto. Diciamo. Il Palermo ci crede un po' meno, mentre invece i giocatori lì, scusa, hai detto soltanto qualche centinaio lì a Torino, a piove? Per ora l'atmosfera è abbastanza, diciamo, di basso profilo. No, non ho capito, piove? Come? Piove? No, il cielo però minaccia pioggia. Ah, scusatemi se non sento bene, ma qui un po' l'atmosfera è come i mondiali in Sudafrica. Cioè, centinaia di trombette stile vuvuzela che stanno suonando ormai da decine e decine di minuti. Vabbè, ma tu puoi staccati, no? La città è grande, sono soltanto qualche centinaio. Intanto in questo momento Pogba stava facendo un numero epocale, portando tra l'altro la Juventus al 2-0, ma nulla di fatto. Pogba, il futuro, come si suol dire, no? Ha fatto un numero clamoroso, sulla destra ha fatto un doppio palleggio volante con un sombrero sul difensore del Palermo, poi crossato al centro, ma la palla è stata deviata da Sorrentino, il portiere del Palermo. Sempre 1-0. Senti, per la Juve. Ma c'è il mega schermo o c'è soltanto della gente che sta bivaccando lì? Allora qui la piazza si sta pian piano riempiendo. Sì. Le persone si sono tutte accalcate di fronte ad un mega schermo che per ora sta mandando in onda delle immagini, diciamo, di archivio, e che probabilmente fra qualche minuto dopo la fine della partita inizierà a mandare immagini dalla stessa piazza e probabilmente anche dallo stadio. Ma fammi capire, dà delle informazioni almeno, cioè sulla partita? No, qui ognuno sta ascoltando la partita con la radio piuttosto che col cellulare, chiede al vicino, quindi non c'è una diffusione generale di quello che sta accadendo allo stadio. Ecco, la domanda sorge spontaneo, bandiere con sopra scritto 31 ormai sono già pronte, sono già belle piazzate. Ti dirò di più, ho scritto stampate scudetto sulla pelle. 30 e 31. Ah, cioè? Quindi non sono più sul campo, sono sulla pelle adesso? Cioè? Sulla pelle. Scusate, non ho... La bandiera che è stata stampata apposta per l'occasione. Ah, scudetto sulla pelle, ho capito. No, cuciti sulla pelle, scudetto 30 e 31. Senti, puoi ammazzare subito così il frastuono di quel signore? Cioè, mamma mia, intanto un tiro da lontano, traversa, clamorosa. Di chi è che aveva fatto quel tiro? Forse ancora Pogba. Pogba forse. Fa di tutto ormai, sta facendo di tutto per poter segnare, ma sta facendo una serie di numeri incredibili, ma non riesce a buttarla dentro nel frattempo. Senti, ma quel suono fastidioso, sarà uno che ha la trombetta? Se fosse uno l'avrei già pregato di smettere, in realtà credo siano centinaia di persone. Senti, allora fai una cosa, prova a fare questo gesto atletico, allontanati lentamente senza farlo offendere, però cioè non farti notare che ti stai allontanando da lui perché stai facendo un collegamento in diretta, che magari la vive male. Ecco, poi dopo si offende, sai com'è, si arrabbia, sono quelle cose che poi dopo non ci piacciono, insomma, tra virgolette. Insomma, la piazza è lì, bella pronta, però non sta ancora accadendo nulla. Si stanno preparando tendenzialmente, poi dopo sei in piazza Castello o sei in piazza San Carlo? Perché dopo vanno in piazza San Carlo normalmente. Castello, per ora Castello. Io ritrovo ufficiale in piazza Castello. Sì, tieni presente che poi è piazza San Carlo sotto il cavallo, è un classico, è un classicone quello. Il tiro lì di prima era di Quagliarella, giustamente, il tipico tiro di Quagliarella. Era Quagliarella, non sì, era Pogba? Quagliarella sulla sinistra, un tiro di interno destro che si è stampato sul palo, ha superato Sorrentino, portiere di Palermo, sempre 30 1-0. Metri. Sì, era angolato, sì, 30 metri, 25 dalla porta. Sempre 1-0 della Juventus sul Palermo, ricordiamo che anche in caso di 1-1, anche in caso di 2-2, anche in caso di 3-3, la Juventus sarebbe campione d'Italia, quindi sarebbe un bel gesto nei confronti degli amici del Palermo concedere un pareggio che si sono meritati sul campo. Come cosa stai dicendo? No, niente, stavo... Cioè, stai dicendo le ovvietà, cioè, capito? No, comportati cioè... bene, dai. Di Pogba, e poi dice di no. Maronica fa segno, mi ha sputato. Va a estrarre il cartellino rosso nei confronti di Pogba. Pogba. Nulla da dire su questa decisione. Peccato perché, insomma... Scusa, Pogba ha sputato? Parrebbe che Pogba abbia sputato Aronica, perlomeno Aronica aveva fatto segno verso l'arbitro dicendo mi ha sputato. Pogba negava, come ovvio che fosse. Ma quindi è espulso? Sì, è espulso Pogba, esatto. Rosso diretto che avrebbe sputato ad Aronica. Ma che vergogna. Purtroppo Pogba non vede... C'è gente che ha puntato su di lui, c'è gente che ci ha creduto. Sullo sputo di Pogba? È scommesso che... No, su Pogba, dai, adesso non voglio dire, non è questa... Quindi Juventus in 10, attenzione, la situazione si fa complicata, mancano ancora 10 minuti alla fine della partita. Abusiamo di Luca Cancellara, che è lì bello piazzato a cincischiare per Torino, città splendida ormai. Quindi Luca, a te la linea. Sì, Eccomi, no, sarebbe un bel gesto da parte vostra aggiornarmi anche sul titolo, sul risultato del Toro. Casomai qualche torinista avesse mi chiedesse informazioni. Guarda, ti do qualche dritta. Secondo me i torinisti oggi non vanno in giro per Torino. Dici? Sì. Comunque 0-0. E comunque, guarda, non si fa notare, secondo me, oggi. Comunque, cioè, non... anche che forse prima, passando davanti al Torino Storm ufficiale, ho visto anche le serrande abbassate. Dopo andrò ad accertarmene, ma oggi probabilmente per il Granata è notte buia. Ma è domenica, sai, magari hanno fatto un po' di... si sono rilassati un attimo, insomma, niente di che. Intanto attenzione, perché 1-0 e in 10 la Juventus, il Palermo ha ben 4 minuti più recupero per tentare la sortita. Nel frattempo il Torino invece regge la botta. Sì, sembra un pochettino, sai quel film western con John Wayne, Assalto a Fortapace, ecco, una cosa di questo tipo. Il Milan sta giocando con Robinho, Niang, Pazzini e Balotelli, cioè sono dentro tutti praticamente, e quindi questa è la situazione del... Ma dove è Luca? Luca. Ci sei. Sì. Eccomi, ci sono. Okay, mi avvicino un attimo forse a due tifosi, siamo in diretta su Radio 24. Non siete tifosi della Juventus? No, non abbastanza. Però va bene così. Però non abbastanza, cioè comunque lo scudetto ce lo portiamo a casa. Non so se c'è la certezza matematica, penso di sì, a giudicare dal casino, penso di sì. No, in realtà devo ancora finire, ma tanto che forse gli sapevano già da gennaio che il campionato sarebbe stato loro. Siamo abbastanza informati. Siamo abbastanza niente, no? Ecco, come avete capito, oggi a Torino, in piazza Castello, ci sono anche persone che non sono tifosi della Juve e che da lontano, con un fare un po' dimesso, insomma, stanno aspettando la festa juventina. Ecco, no, la cosa interessante è che tu sei diventato juventino quando intervisti la gente adesso. Ce lo portiamo a casa, hai detto. Quel solito distacco che mi contraddistingue. Il solito coniglio. Abbiamo il solito inviato coniglio. Ecco, senti, distorci tantissimo nel frattempo, ma noi ti vorremmo ascoltare per tutta la giornata, per tutta la trasmissione. Nel frattempo tiri da lontano, sempre nei confronti della porta della Juventus, non si capisce perché, da parte del Palermo, che ci crede, perché mancano pochi minuti per arrivare direttamente poi tranquillamente alla fine di questa partita. Mancano 2 minuti più tutto il recupero e ricordiamo la Juventus in 10. Noi nel frattempo però attenzione, perché c'è il gol del Milan in questo momento. Un gol fondamentale che manda il Milan a più 4 sulla Fiorentina a 3 giornate dalla fine. Mario Balotelli, nono centro in stagione in maglia rossonera, si toglie la maglietta, verrà ammonito perché è così. Perché? Non ce la fanno, è più forte ma di perché? Loro. Guarda, ne parleremo subito dopo il traffico. Nel frattempo adesso andiamo col traffico. Dai e vai, non è solo calcio. Festeggia chi, forse festeggerà, non so, non può anche darsi. No, queste cose non vanno mai dette. Può darsi, non detto che festeggerà di sicuro, anzi, sarà durissima. Esatto, perché la Padova è una squadra ostica. Assolutamente. E parliamo però dell'allenatore della Sassuolo che abbiamo qui al telefono, Eusebio Di Francesco, che ovviamente noi salutiamo caldamente per quello che sta accadendo, ma anche per quello che accadrà, giusto, mister? Buonasera a tutti. Tutto bene? Diciamo di sì. Diciamo, cioè la tipica tensione del giorno prima, giusto? Beh, quella che non guasta. Sì. Un po' l'ottomaco. Com'è che sta trascorrendo questa giornata con la squadra? Perché sappiamo che siete in ritiro, domani sera Sassuolo-Padova, in caso di vittoria ci sarebbe la promozione del Sassuolo in Serie A, la prima volta nella storia. Come sta andando questa giornata oggi? Mi sto vedendo tanto per cambiare un po' di partite, insomma, nelle partite di Serie A. Certo, così per distrarsi un attimo, insomma. Sì, anche un modo, ci si distrae poi a vedere gli altri, magari a vedere la propria. Senti, senta mister, però allora, scudetto di Juventus, insomma, questa cosa qui ormai consolidata da tempo, insomma. Non c'è nessuno in Italia che può competere, eh? A attualmente i risultati dicono che la Juve è superiore, ma non solo nei risultati, anche nelle prestazioni, con la facilità con cui ha dominato questo campionato. Senta una cosa, ma si parla già di acquisti per quanto riguarda il mercato, il Milan deve fare degli acquisti di giocatori, le prospettive però in questo momento sono che la Juventus anche l'anno prossimo possa non avere rivali? Questo non lo so, bisognerà aspettare anche le mosse di mercato delle varie squadre, tante situazioni possono cambiare, però ovviamente se andiamo a vedere la rosa attuale e le potenzialità della squadra, diciamo a livello di solidità proprio generale, la Juventus è superiore a tutte le altre in questo momento. Ecco, diciamo così, che adesso mancano più o meno poco più di 27 ore alla partita di domani sera, qualche cosa del genere. Ecco, ci può raccontare che cosa farete da adesso in avanti, fino alla partita? Cioè, come si affronta una partita così decisiva come quella di domani sera contro il Padova? Ma non è come tutte le altre a livello di tensioni e di obiettivo da raggiungere, però sicuramente la prepareremo nello stesso modo, nel senso che questa sera vedremo un video, faremo una riunione tecnica, in serata si mangia e si va a riposare, che è la cosa più importante in questo momento, è riposare e una corretta alimentazione. Ma quando si dice si va a riposare cosa vuol dire? Cioè gli si manda a letto a che ora? Ma entro le 10 sono in camera i ragazzi. In camera? Con la TV, ma prima si giocava a carta, adesso si sta attaccato al computer. Sì. A giocare con la PlayStation magari? Ma non so, PlayStation, a twittare, le robe varie che fanno i ragazzi, cose che io non sono molto pratico e bravo. Mentre la giornata di domani sveglia alle ore? Domani ci svegliamo alle 9 e facciamo allenamento alle 10:30, un allenamento di rifinitura in preparazione della gara di domani. Poi un pranzo e poi ci si avvicina nel pomeriggio a riposo, immagino. Sì, riposo, merenda, e la sera faremo l'ultima riunione che dove do io la formazione e poi andiamo allo stadio. Ma adesso lei come li vede i ragazzi? Tanto loro non stanno ascoltando, no? Cioè in questo momento qua, cioè li ha visti un po' oggi, insomma, come li vede? Un po' più tesi del solito, un po' più nervosi, tra di loro parlano? Si isolano, com'è che funziona? Intanto, no, è un gruppo particolare, abituato a scherzare in tutti i modi, a prendersi un pochino in giro, e questo è un dato positivo e non deve cambiare al di là della partita che andiamo a affrontare, perché questo atteggiamento e questo modo di fare dei ragazzi ci ha portato ad avere 80 punti, nel senso che capiscono il momento in cui bisogna scherzare e in altri che diventa serio. Certo, e questo è serio, molto serio, ma erano anche quelle prime. Sì. È molto serio, l'ha preso seriamente anche Conte, che in questo momento ha la bambina in braccio e sta entrando nel campo, dove tutti quanti i giocatori della Juventus si abbracciano, salutano, e, insomma, si vogliono tutti bene, tutti un po' commossi, chi più chi meno, chi un po' si arrabbia anche, c'è un po' di nervosismo. Diciamo che adesso abbiamo la certificazione matematica, la Juventus è campione d'Italia del campionato 2012-2013. Ecco, mister, però chi è il giocatore, chi è il giocatore rappresentativo? Togliamo via Conte, perché tutti ormai dicono che è Conte, ma qual è il giocatore fondamentale di questa Juventus? Conte, l'allenatore è fondamentale, è importantissimo, però se devo prendere un giocatore su tutti che fa la differenza è Pirlo in mezzo al campo, e voglio dire anche lo stesso Barzagli, che nonostante se ne parli meno ha dimostrato di essere un difensore di una affidabilità impressionante. Sì, Barzagli insomma. In questo caso Pirlo è un po' anche un po' troppo facile. Troppo facile. Poi tra l'altro bisogna anche dire che proprio per andare a cercare il pelo nell'uovo, per dar fastidio, per non essere tutti un po' omologati anche su questa comunicazione, cioè è un po' calato, no? Nell'ultima parte si era un po' concentrato, tutto nella prima parte della stagione ha giocato meglio, nella seconda è un po' calato, tutti lo dicevano, però poi in realtà alla fine Pirlo è talmente una persona, è un giocatore che dà sicurezza a tutti gli altri, a tutto il reparto, come si suol dire. Comunque quindi lei Barzagli, giusto? Sì, ho capito. No, ma poi bisogna dire anche un'altra cosa, che più le partite diventano importanti nel girone di ritorno, i giocatori che hanno più qualità a volte rischiano di vedersi un pochino meno dell'andata, perché le marcature sono meno serrate, c'è meno aggressione magari, ma quando poi diventano importanti i risultati cercano quasi tutti di spegnere la fonte della Juve, che è Pirlo. Quindi c'è un controllo maggiore. poi ha trovato negli altri centrocampisti il modo di poter sfondare nelle difese avversarie. Allora le facciamo... poi Pirlo era impegnato a scrivere il libro, come faccio. Esatto. E quello è il problema. La letteratura ogni tanto è contro il calcio, diciamo la verità. Distrae, assolutamente. Però mister, adesso diciamo così, dobbiamo mettere dentro due o tre giocatori, o comunque un tot di giocatori, per poter competere con... la dico dura, sì. Con il Bayer, eh? Adesso, perché di questo poi stiamo parlando, no? In questo passaggio. Allora, intanto, chi vorrebbe permettere? Beh, a parte i soliti, però... Sì. Chi è che vorrebbe? Secondo lei chi è che alla Juventus dovrebbe prendere per fare quel salto di qualità a livello internazionale? Perché in Italia c'è poco da saltare. Tutti parlano dell'attaccante e ci può stare. Devo dire che la forza della Juve è sempre stata la compattezza del gruppo e il fatto che tutti i giocatori lavorano per un unico obiettivo e non c'è un giocatore che si esalta più di un altro, perlomeno parlo dei giocatori in avanti. Sicuramente un leader, un giocatore un pochino più riconosciuto tra virgolette come titolare davanti ci vuole. Ma questo vociare di Ibrahimovic, lei cosa ne pensa? Il ritorno di Ibra? Sì. Lewandowski. Ah, Lewandowski? Ah, Lewandowski vuole? Proprio così, uno semplice da 60-70 milioni. Adesso tutti ne parlano, era più facile magari dirlo prima. Esatto, adesso 60 milioni ci vogliono, quante ci vuole per portarlo via? Circa. Se no che top player è, se costa 5 milioni. C'è da dire però che ci sono stati dei top player in Germania, tipo Dzeko, che comunque poi sono andati a Manchester City, non è che abbiano fatto sti sfracelli. Quindi il rischio è che magari Lewandowski in un campionato come quello italiano, con le difese un po' più strette, non riesca a ottenere gli stessi risultati. Va bene, difatti questo, il campionato italiano è un pochino diverso dagli altri. Si dovrebbe prendere un giocatore che è già fatto benissimo con l'Italia. Certo. Però ritengo che Palotelli ce l'ha il Milan e allora per trovare un altro attaccante di livello altissimo bisogna andarlo a prendere all'estero. Senta mister, l'ultima cosa, che cosa dirà domani sera l'ultimo secondo prima di uscire dallo spogliatoio? Lo dica a noi che tanto i ragazzi non sentono, proprio l'ultima parola che dirà ai ragazzi. Che voglio dei leoni in campo, appunto. Ah. Con domani conto il risultato. Ah, non l'ultimo chiude la porta, no, quella frase lì no. Ma quella la chiudo io. Ah, vabbè, lei, ecco perché. Grazie, mister. Non gli facciamo ovviamente gli auguri, comunque il lupo dovrà prima o poi crepare. Grazie, a risentirci. Grazie, salve. Salve. C'è sottofondo, lo teniamo lì così, mica ti dà fastidio. Adesso dimmi che ti dà fastidio. No, non mi dà fastidio. Dai, leggi bene questa classifica. Bella che hai messa lì. Dai. Juventus è 83 punti. Vale. Ha vinto il campionato. Come basta. Un abbraccio noi. Poi c'è il Napoli che ne ha 69, il Milan ha 65. Scusa, puoi ripetere la Juve quanti? La Juve 83. Napoli? 69, sì. Scusa, però... ripeti 83? No, aspetta. 69, aspetta. Una partita in meno. Vero, c'è una partita in meno. Un attimo. Sai che ci sono quelle partite che poi uno si gioca al jolly, il fil rouge. E vale triplo. E quindi tutto è ancora aperto, potrebbe succedere di tutto. Senti, ti saluto perché arriva il GR in questo momento. Dai e vai. Ecco, ci sono, stadio del di Torino. Lo stadio di Torino, bellissimo, però qualche problemino, diciamolo, in questo passaggio. Un po' di traffico, ecco, nel senso che hanno tentato invasione subito dopo la fine della partita, tutti negli spogliatoi, festeggiamento, dopodiché riescono a far uscire di nuovo i tifosi, escono i giocatori, stanno fuori 3 minuti, poi sono costretti a scappare di nuovo negli spogliatoi perché nuova invasione dei tifosi. Sì, diciamo che questa storia... Stanno poi salvando Bonucci in questo momento diventa, tra l'altro, l'assalto degli Stewart, che tentano di difenderlo, esatto, quindi diventa proprio problematico, ecco. Al centro del campo un grandissimo scudetto di circa una ventina di metri di lunghezza, 15 metri, con un 31 gigantesco. Ecco, appunto proprio di questo volevo appunto dire che ci sarà il grande dibattito della prossima settimana, e cioè quello che ovunque loro hanno fatto vedere il segnale di divieto del 31, Poi hanno fatto vedere lo scudetto con sopra scritto 31, si sono fatti la foto ufficiale con 31, hanno la maglietta, secondo me, che non si capisce molto bene, è strana, però con dietro tutti i nomi, campioni e via dicendo. Penso che davanti abbiano soltanto un gioco di... Ma sai che secondo me è oscurato perché è lo sponsor? Può darsi che ci sia lo sponsor. Perché lo sponsor, scusa? Cosa ne frega a Sky? Di... Vabbè, comunque, anche lì davanti hanno lo sponsor e comunque hanno ovviamente la maglietta con sopra 31. E poi cos'è che c'hanno? Ecco, era strano perché tra l'altro se Luca Cancellara dovrebbe confermarmi. Luca, pronto? Sì, eccomi. Sempre qui dal centro di Torino, mezzo di bianconeri. Aspetta, volevo chiederti, piove? No, al momento ancora il tempo regge, prima nel momento della fine della partita anche un pallido sole si era fatto vedere, ma adesso è coperto nuovo, mento dalle nuvole. Quindi nuvoloso, direi. Nuvoloso, ecco, perché, ma non piove. Perché volevamo darti questa notizia che è abbastanza inspiegabile, oppure è spiegabile soltanto in altri modi, cioè la presenza di alcuni giocatori della Juventus che quando sono rientrati in campo con gli occhiali da sole. Ora, è un po' strana questa... Devo dire che io gli occhiali da sole li ho lasciati in borsa adesso, Ah, sì, questo non è rilevante, magari tu vedi benissimo, però il concetto è capire che non c'è il sole, diciamo, non c'è il sole, quindi è inspiegabile questa presenza di occhiali da sole sui volti dei giocatori della Juventus, se non per sponsorizzazione di qualche cosa. Però questo lo evitiamo, lo mettiamo da parte, è soltanto una considerazione maligna di Luca Gattuso. No, figurati. No, chi l'ha fatta? Scusa, ha fatto mica io quella considerazione lì. Nel frattempo arrivano immagini dagli spogliatoi. Più che immagini dagli spogliatoi sono della sala massaggi che c'è oltre gli spogliatoi, con grande bottiglia di champagne stappate da Conte in questo momento. Luca, dici che cosa succede lì? Allora, qui ormai ovunque dalle vie laterali delle principali piazze ormai stanno affluendo tifosi con i tricolori, bandiere bianco-nere al cielo, ovviamente le maschere. Quasi tutti hanno una maglietta della Juve, i nomi più indossati sono Vidal, Marchisio e Pirlo, però vorrei darvi anche qualche nota a Marcord. Ho visto un ragazzo con la maglia 32 di Marchionni. Marchionni? Con Marchionni, sì. Qualcuno ancora con la maglia numero 11 di Pavel Nedved e ovviamente ancora molti con la maglia del capitano, il numero 10 Alessandro Del Piero. Beh, quella non si può togliere, quella lì si mette apposta, cioè si metterà da parte, si lava e poi si userà soltanto in quei momenti importanti, insomma, da questo punto di vista. Bene. Sono riutilizzate molte bandiere ancora con due stelle, sono ancora poche le bandiere invece che aggiornate. Aggiornate. 30, 31 scudetti, insomma. Però molte bandiere hanno ancora due stelle. Cioè, posso dire che la maglia celebrativa ufficiale recita: Torino siamo noi sul petto con la mole antonelliana che funge da lì, e dietro sulle spalle, sulle scapole, i loghi del Torino e dell'Inter e la scritta "La vostra invidia, 31 la nostra goduria". Ah, ho capito, vabbè. Insomma, andiamo un po' a sentirli, insomma, cioè questi tifosi, magari così, veloci. Siamo in diretta su Radio 24, scudetto meritatissimo. Ferma, non sentiamo nulla. Luca. No. Ecco una citazione tipo Liberti: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. La vedo durissima riuscire a fare questo collegamento con i tifosi. Luca? Devi tenerli lontano dal tuo cellulare, perché se no non riusciamo a sentire praticamente nulla, se non tutto un suono distorto. Comunque, vabbè, insomma, questo l'avevamo più o meno intuito, quello che stava più accadendo in questo momento. Ci sentiamo più tardi intanto. Tu tieni la posizione, mi raccomando. Pronto? È già svenuto. Dopo, dopo. pensavo fossi già svenuto, voglio dire, in questo caso. Già, nel frattempo, se proprio vi può interessare, no? Ormai fanno il bagno, vestiti, cioè quelle cose ci un po' strane. Ci sono le vasche idromassaggio. Sì, quelle belle, però. Esatto, in questo, molto belle. Vabbè, insomma, in questo passaggio. In realtà, quello che stupisce in questo momento, perché è una zona degli spogliatoi che non si è praticamente mai visto, si è sempre vista la zona in cui si cambiavano, è la dimensione esorbitante di quest'area per i giocatori, dove fanno i massaggi, dove ci sono le vasche idromassaggio, dove in questo momento stanno buttandosi in acqua nelle vasche, dove stanno facendo stappare le bottiglie di champagne, insomma, dove stanno festeggiando questo scudetto, 29esimo scudetto della Juve, ricordiamo. 31esimo, siamo cominciati, allora, diciamo, voglio dire, dice 29esimo. Dai e vai, dice invece 31esimo. Diciamo non tutto. 800 24 00 24 800 24 00 24, se proprio volete dirci qualche cosa di brillante, non quello che avete in questo caso scritto, perché sono un po' vietate le solite cose, insomma, quindi niente di particolarmente curioso. Se volete proprio scrivere altre cose, 349 238 6666, 349 238 6666, qui direttamente a noi. Nel frattempo andiamo col traffico. Dai e vai. Andiamo lontano, noi lo festeggiamo in modo un po' particolare questo scudetto. Lontano, insomma. Quanto? Verona? No, Bologna? No, Roma? Giù, Napoli? Giù, molto. Reggio Calabria? Ma dai, sei qui, no, sei ancora qua fermo. Agrigento, capito? Oltre non vado, guarda, no, Agrigento. Ma vai, giù, lontani. Allora, parliamo direttamente con lui, Poppy Fabrizio. Pronto, Poppy? Ciao ragazzi, cioè, allora, dove sei tu? Dove sei collocato in questo momento? Guarda, io sono sotto l'equatore, sono in Kenya. Eccoci qua. Oh, sono in Kenya e sono a Nairobi in questo momento. Ecco. E giornata piovosa, giornata uggiosa, ma ho potuto celebrare lo stesso la vittoria della Juventus. Sì, sì. Da buon juventino, per cui sono molto contento. Ecco, noi ti chiamiamo. Giornata che mi rende ancora più contento. Ecco, noi ti abbiamo chiamato anche perché è il primo Juventus Club Doc in Africa. Ho capito bene? Sì. Ho avuto la fortuna di poter aprire questo Juventus Doc Club. Sì. 2 anni fa, sì. E da 2 anni ad oggi abbiamo fatto abbastanza cose, però ieri abbiamo ufficialmente aperto la prima soccer school official in Kenya, nel senso che è la prima scuola di calcio ufficiale in, sì, Kenya. Non ce ne sono, non ce ne sono altre. No, non c'è nemmeno l'Arsenal, Liverpool, sai, tutte le squadre inglesi qui, cioè, la fanno da padrone, no? Con Real Madrid e il Barcellona. E invece noi, zitti, con il nostro Juventus Doc Club, abbiamo aperto la prima scuola ufficiale, ovviamente, con il beneplacito della Juventus. Quindi c'è la Juventus che ha aperto la prima scuola, diciamo chiaramente, in questo passaggio. Quindi è un bel messaggio, ma soprattutto è una bella cosa. E quindi di che cosa sono? Cioè, tu avete deciso di fare questa scuola, no? Lì in Africa. Lo so, però il discorso è lungo. Il discorso parte 6 anni fa. È partito 6 anni fa quando ho deciso di lasciare l'Italia, lasciare il mio lavoro e trasferirmi in Africa perché... Perché che tu facevi, scusa, come lavoro, dillo tu che cosa facevi come lavoro, perché è interessante questo aspetto. Ma guarda, io ho lavorato 40 anni nella musica, nella discografia italiana. Sì. Prima come artista, ho fatto un festival di Sanremo nel 71 con mio fratello, poi pian piano, siccome mio fratello è di gran lunga meglio di me come compositore, ho detto vabbè, lasciamo il confronto, facciamo un'altra cosa, e mi sono messo a fare il produttore, talent scout, direttore artistico e via così. Insomma, sono andato avanti per 40 anni così. Alla fine ti sei trovato, invece sei andato in Africa, e cosa è successo? Ma Guarda, è successo che ho fatto un viaggio che non volevo fare come al solito, e invece mi sono accorto di una realtà completamente diversa da quella che immaginavo, di gente assolutamente povera e indigente, ma completamente serena, diciamo abbastanza felice di quello che ha e che lo riesce a dividere, lo vuole dividere anche con il prossimo, con me. Io ero sbalordito da questa cosa. Quindi cui hai scoperto l'Africa, detto, no? In questo passaggio. Sì, sì. Ecco, allora hai deciso di fare questa che cosa di particolare? Ho deciso di fare, di aiutare, cioè, attraverso una storia che potrei immaginare è abbastanza complicata, ma comunque sì, segnata. Sono arrivato in un posto sulla riva di un fiume in mezzo alla savana e lì, con l'aiuto della comunità che mi ha dato il terreno, mi ha dato 10 ettari, no, non mi ricordo neanche più, sì, 10 ettari, abbiamo cominciato a costruire pian piano le cose, cioè abbiamo costruito un asilo, abbiamo costruito una falegnameria, una sartoria che poi però è stata chiusa, e siamo andati avanti perché il progetto prevede anche l'orfanotrofio, la clinica, l'ambulatorio assolutamente gratuito. Abbiamo portato l'acqua che non c'era perché bevevano l'acqua del fiume e abbiamo portato l'energia elettrica attraverso i generatori e adesso con i pannelli solari. E adesso avete portato tutto anche questo, il calcio? No, però tutto questo è un'associazione Onlus, no? Certo, certo, certo. Allora, le Onlus, come tutte le Onlus, dipendono dalle donazioni. Cosa che si è affievolita sempre più col passare degli anni, perché all'inizio... Certo. C'è l'entusiasmo, poi dopo si attenua, no? E poi adesso, poi con le difficoltà che ci sono in Italia, capisco che sia molto difficile pensare a qualcuno che sta facendo qualcosa in Africa. E allora mi sono dato da fare, nel senso che ho scritto alla Juventus, al Milan, all'Inter, alla Roma, alla Lazio, per chiedere se ci potevano aiutare nello sport. Allora, loro, nessuna risposta, ha risposto solo alla Juve, e mi ha convocato subito il general manager del coordinamento Juventus Club Doc, Antonio Crovella, mi ha convocato a Torino e ha detto: questa è una cosa bellissima, noi siamo d'accordo con te, fai il club. E io ho fatto il club. Ma tu sei più juventino, sei un po' juventino. Io sono non un po' juventino, sono tanto juventino. Ah no, ecco, perché sennò sarebbe stato poi anche un colpo durissimo. Metti che tu magari ti fassi, non so, però, Inter, sai, capisci che diventa poi problematico. Ma la partita oggi, so, la partita però, oggi sei riuscito. Che sì, io se l'obiettivo è quello di fare qualcosa per la gente, certo, poteva rispondere Milan, l'Inter, sì, io avrei accettato lo stesso. Sì, perché comunque l'obiettivo, no, ma accettare, siamo, figurati, però far finta di essere entusiasta, va bene. No, poi dopo cos'è successo? È successo che appunto le donazioni non arrivavano più e io ho chiesto sempre al mio amico Antonio Crovella, dico: senti, ma se io faccio una scuola della Juventus? E allora lui mi ha detto: certo che lo puoi fare, ti metto in contatto con chi se ne occupa e niente. Insomma, la storia è che ieri abbiamo aperto la prima di tre scuole che dobbiamo aprire, ufficiali. Chi ha aperto la scuola è la Juventus Club Doc di Ciacama, che è la zona dove noi stiamo aiutando, ed è un'associazione anche questa non profit, per cui i proventi della scuola, chiaramente detratte le spese, vanno tutti a supporto, ecco, del progetto. Scusa, stiamo un po' sulla notizia adesso, su questo. Come avete visto la partita? Avete vista la partita? Avete sentito la partita? Certo che l'ho vista. Vista? Sì, sì, sì, no. L'avete vista? Sì, l'ho vista. No, ma ho perso un po' di primo tempo, ma l'ho vista. Ah, ecco, però il primo tempo è stato quello bello. Dimmi. No, il primo tempo è stata la parte bella, poi il resto si sa com'è andata. Come è andata? Come? Non è vero, non dà retta, è un tifoso della Sampdoria, lui non fa testo, insomma, c'hai capito? Non è abituato al grande calcio. Ma quindi... è abbastanza nella norma, insomma, sì, non è che fosse, sì, scrivendo qualcosa. Niente di che. Ma insomma, com'è che festeggerai questa sera? Se festeggerai? No, beh, stasera festeggio qui con alcuni dei ragazzi e preparando la prossima settimana. Cioè, qui adesso il lavoro si fa pesante perché, sai, noi dobbiamo raccogliere almeno 90 giocatori, 90 allievi. Siamo a 54, per cui siamo già abbastanza avanti. Però non c'è solo questo. c'è da comunque mandare avanti il rapporto con la Federcalcio qui del Kenya, che ci ha, che ci sta supportando. C'è da mandare avanti il rapporto con la Nike, se posso dirlo. E ormai l'hai detto, quindi. Ormai l'ho detto. Sì, no, non potevi, ma va bene, dai, non ti preoccupare. No, è, scusa, che ci apporta, abbiamo perché... pochissimi minuti, ascolta un attimo però su questo passaggio, vediamo di capire bene. Adesso c'è la possibilità in questo elemento di quello che sta accadendo. Intanto la cosa, sì, che mi interessava era capire, tifosi juventini, a parte te, sei riuscito anche a crearne? Lì all'interno, sì, di questo, ma guarda, club, che ce ne sono qua, eh? Sì. No, insomma, non sono tantissimi, però, girano tanti ragazzi con le magliette della Juventus, cioè io sono qua a Nairobi, quindi Nairobi è una città internazionale, è una città, sì, vabbè, e quindi... tra l'altro abbastanza ricca, per cui con gente che può permettersi di prendere delle magliette originali o cose del genere. Ci sono molte automobili di quelle che sappiamo noi, sì, e quindi senti, noi ti dobbiamo lasciare. C'è un modo per aiutarvi direttamente, velocissimo però, Sì, guarda, andare sul nostro sito, che è jssk.me. Ok, va bene, grazie. Okay. Grazie. Grazie a voi, ragazzi. Auguri, forza, ciao. Juve. Ale, ed è la Juve. Ale. Ciao. E vabbè, se non canto con loro, se tu non vuoi cantare con me, intanto, figurati. È bestiale perché continuano a far vedere tutte le immagini, tutte le vasche che vengono fatte. È stato buttato dentro una delle vasche anche persino Conte in mutande. Però lo stile Juve si vede. Stile Juve in questa occasione si vede perché al posto di buttarlo coi pantaloni, la giacca, la cravatta, l'hanno prima spogliato, messo in mutande e poi l'hanno buttato nell'acqua. Beh, certo, scusa, è lo stile Juve. Questo è lo stile Juve. Lo stile Juve, cioè, questo. Allora, se il Milan vuole tornare a vincere in Italia e in Europa, deve prendere l'allenatore del club che ha vinto di più in diverse squadre. Fabio Capello. Questo è Alberto che ci scrive sul 349-238-6666. Vabbè, guarda, trovo scandaloso nel giorno in cui la Juventus vince il suo 31esimo scudetto, noi parliamo del Milan. Dai e vai. Non è solo calcio. Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, oro che si alza davvero per te. Ciccio, il bianco che abbraccia il nero, non so se cogli, voglio dire, come stiamo sulla notizia, tra le altre cose. Quindi stiamo parlando di scacchi, giusto? Dai, ma bianco dai, e nero, cioè la scacchiera, vabbè, riesci, vabbè, proprio, la, la torre in Torino, cioè, così. Dai, per favore, Luca, salvami tu, dico Cancellara, in questo caso. Se mi sono mai lei cerchi aiuto da me, io nel frattempo mi sono spostato da Piazza Castello a Piazza San Carlo, sotto al cavallo, dove fondamentalmente, come tu dicevi prima, spesso è il fulcro dei festeggiamenti. Esatto. Stavo parlando prima di maglie a Marcordi, c'era qualcuno ancora che andava in giro con la maglia di Pavel Nedved, di Marchionni. Qui ho due ragazzi che hanno la maglia di Alex Del Piero, il capitano, quindi gli scudetti passano ma i capitani rimangono. Uno ha la maglia, diciamo, nuova, l'ultima maglia di Alex Del Piero di Sydney. Un altro invece che si chiama, ciao, come ti chiami? Mi chiamo Gianni, ciao Del Piero. Gianni, tu hai una maglia di Del Piero originale, ma se vedi bene, l'uno e il 10 alle tue spalle sono autografati. Cioè, questa maglia era di Alex Del Piero. Sì, era di Alex Del Piero nel 98, a partita Juventus-Milan. Mi è stata regalata da mio zio, che rappresenta la partita. E mi è stata regalata, è stata una gioia immensa. Ah, quindi non te la sei sudata tu. Pensavo che l'avessi lanciato e tu ti fossi immollato per prima. No, no. Non è proprio così, però è una gioia, cioè, non è il capitano. E adesso per il 31esimo scudetto, adesso dimmi tu a quanto siamo arrivati, con l'orgoglio la indossi ancora. Sì, assolutamente, il capitano è il mio idolo. Quanti scudetti avete vinto oggi? Siamo al 30, 31, 29, 28? 31, oggi 31 abbiamo vinto. Ah, ok, no, perché ho visto ancora prima qualche bandiera che aveva ancora due stelle, sono tutte vecchie, ormai no, sono vecchie, le stelle sono tre. Invece tu che hai la maglia odierna di Alex Del Piero, quanto li hai pagati intanto? L'ha regalata. Ah, ok, no, perché sai, queste maglie australiane costano di più di quelle. Certo, no, me l'hanno regalato, sto regalo per Natale. Allora, oggi si festeggia, bisognerà per forza venire qui, tanto si sapeva già dal 13 gennaio, no, che il campionato era vostro. Sì, però oggi era la data ufficiale, 5 maggio, ricorda una data speciale per noi bianconeri. E come no? È giusto così. Adesso qual è il programma del pomeriggio e della serata? Ma aspettiamo, festeggiamo un po', poi aspettiamo i calciatori che dovrebbero passare col pullman scoperto e... Ma passano? Ecco, qual è il percorso che farà? Dov'è che arriva? Forse non diciamo, dobbiamo spostarci? Non sappiamo, aspettiamo qualcuno ci dia indicazioni e aspettiamo. Sì, intanto Luca, ecco. Luca, ci senti? Ecco, ti stavamo, volevamo soltanto descrivere che praticamente stanno smontando lo stadio, perché cioè vabbè, a parte la telecamera di Sky che è saltata, giusto? Purtroppo sì, 5 secondi di silenzio per la telecamera di Sky colpita da un gavettone negli spogliatoi della Juventus, è completamente bagnata, poi a un certo punto si è spenta, si è visto il nero, telecamera distrutta. Poi ti dico subito l'altra notizia, le zolle del campo vengono un po' sollevate, portate a casa, insomma, tra virgolette. La cosa sorprendente è che uno aveva, sai, la paletta da giardino? E come abbiano fatto ad entrare con la paletta da giardino nello stadio, lo sa solo loro. Vabbè, magari l'hanno chiesto lì. Poi la rete, ovviamente, si taglia un po' di rete, si porta a casa perché è un altro bel ricordo. Ricordo intanto 349-238-6666 per quelli che vogliono ancora scrivere qui direttamente tramite SMS, oppure 824-0024 per quelli che invece vogliono parlare e dire qualche cosa dedicato ovviamente alla Juventus. Ovviamente se quelli che vogliono telefonare sono anche contro la Juventus, perché questo no, li soddisfa. Sì, ma no, figurati, no, certo, accettiamo, certo, tutti. È un po' superfluo, però vabbè, no, oggi no, anzi, non tifosi, è giornata, non tifosi è giornata. Antijuventini, fatevi vivi l'orgoglio antijuventino qui a Dai e Vai su Radio 24. Intanto è un controsenso, cioè tifoso e anti e non funziona. O no, sei tifoso per qualcosa oppure sei anti. Quindi in questo caso. Allora, Luca, intanto immagino che lì la piazza poco per volta ormai si è già riempita. Sì, qui si sta riempiendo, c'è un via vai, diciamo che ci sono gruppi di tifosi che fanno delle cosiddette vasche, diciamo in attesa che la festa esploda ufficialmente, magari anche con la squadra e con l'arrivo del pullman scoperto. Guarda, tranquillo, i tifosi che vanno avanti e indietro e sono tutti dentro lo stadio, si incrociano un altrettanto gruppo, insomma, che sta attraversando le strade principali della città. Ecco, sono qui con un gruppo di ragazzi, sono in diretta su Radio 24. Vi vedo un po', Mauci, come devo fare per farvi vedere qual è la piazza, come si vede qual è la piazza che vince, tra Piazza Castello e Piazza San Carlo. Ah, quindi questo è il dramma del tifoso Juventus. No, abbiamo meno dell'anno scorso, però siamo comunque in pieno delirio, diciamo. In realtà vi state riscaldando aspettando che magari si capisca qual è il percorso del pullman. Siamo abbastanza carichi, questa è una festa più controllata, cioè aspettavamo di più quest'anno. Siamo qui un po' più sicuri perché si festeggia già da Luca, non si sente. I ragazzi dicono che diciamo il mood di questa festa è un po' più controllata perché ci si l'attendeva di più. Ecco, diciamo che era più che altro più annunciata questa festa, diciamolo, materialmente. Senti, ci sentiremo ancora più tardi, ciao, grazie! A dopo! Ciao! Si vocifera. Dimmi. No, dico, ma si vocifera che Luca Gattuso. Sono io. Non tu. Sì. Sei tu? Sì, di solito va in giro per il suo paese con una papera al guinzaglio. No, è un'anatra, quindi l'ascoltatore che non si firma neanche. Saluti. Però ha il numero che finisce per 458, quindi poi ci sentiamo stanotte alle 3, come al solito, glielo ricordiamolo. Spieghi, glielo spieghi. Stanotte alle 3 ti chiamo a quel numero di cellulare e ti spieghi. Racconto che è un'anatra e non una papera, grazie. Ecco. A luglio grande festa a Châtillon e a Saint Vincent per il ritiro della magica Juve, vi aspettiamo. Cosa facciamo? Già la pubblicità, non ho capito, scusa. Intanto diamo l'informazione per chi ha Facebook e vuole vedere anche, non soltanto sentire Luca Cancellara, ma vedere quello che sta succedendo in questo momento a Torino. La nella piazza. Sì, esatto. Non vedere Luca Cancellara. No, vedere quello che sta succedendo con Facebook. Esatto, gli occhi e le immagini che Luca sta scattando li abbiamo pubblicate sulla pagina Facebook di Dai e Vai con la E commerciale. Cercate Dai e Vai trattino Radio 24 su Facebook e lì ci sono le foto della festa in piazza, eccetera. Se vuoi continuare a parlare di calcio, parla pure di calcio. No, se vuoi dilungati su queste cose ormai inutili e superflue. No, e invece se non vuoi, invece, se vuoi parlare, dare altre notizie, cioè essere comunque in qualche modo utile in questa giornata. Ad esempio parliamo di MotoGP, perché se è stato anche il MotoGP, tra l'altro polemiche. Allora, ha vinto Pedrosa su Honda. Il problema, la polemica è stata fra Marquez e Lorenzo. Marquez su Honda e Lorenzo su Yamaha. Marquez è arrivato secondo, Lorenzo è arrivato terzo. Il problema è stato il sorpasso all'ultima curva, all'ultimo giro. Proprio gli si è infilato in un punto dove non poteva passare. Lorenzo l'ha vissuta molto male e dopo il traguardo è stato molto critico sulla pericolosità del sorpasso di Marquez. Ha detto: è meglio che non parlo adesso a caldo, fatemi un po' sbollire e poi commenterò il sorpasso di Marquez. Quindi comunque Pedrosa primo su Honda, secondo Marquez su Honda, terzo Lorenzo su Yamaha e quarto Valentino Rossi su Yamaha. Questo è l'ordine d'arrivo del MotoGP a Jerez, il Gran Premio di Spagna che si è corso oggi alle 14. Ecco, tutto qui? No, adesso poi se vuoi ti do anche... Adesso poi cosa? No, cioè, subito. Adesso subito, quando? Subito. No, se vuoi adesso andiamo via. Dobbiamo già andare via? No, non dobbiamo andare via, però sarebbe utile se dessi delle notizie. No, guarda, ti mando Allegri. No, Allegri no, guarda. Allegri è già triste. Sta già arrivando. No, poi, hai la notizia? No, sono già rimasto sono rimasto lesionato già da Di Francesco. Poi se facciamo la coppiata di Francesco e Allegri è veramente... Volevo chiedere una cosa. Hai la notizia da dare? Dopo. E allora vedi che dobbiamo beccare per forza Allegri, onesta, e credo che se fosse stato così, o perlomeno avrei sicuramente avvisato prima la società, perché io sono al Milan, sono molto contento. Ecco, vabbè, mi ha già bloccato all'istante, insomma, da questo punto di vista. E questo è Allegri, immaginate il calcio spumeggiante che caratterizza il Milan. Però... Voglio vedere se tu sei preparato su questa disciplina, Salvatore Puccio. Salvatore Puccio. Salvatore Puccio. E come no? Cioè, Salvatore Puccio è... un mito, una leggenda. Esatto. Non molti lo conoscono, però lo impareranno a conoscere, lo conosceranno nei prossimi giorni, perché è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Ecco, Puccio. Esatto, Salvatore Puccio del Team Sky, che ha vinto la tappa a cronometro che si è svolta sull'isola di Ischia, 17,5 km più o meno. Il Team Sky li ha corsi in 46 km orari. Il problema è che il primo a tagliare il traguardo è stato Salvatore Puccio, che ha preceduto Dario Cataldo sul traguardo. Cataldo, perché è fiorentino. Quindi Salvatore Puccio è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Salvatore Puccio del Team Sky, maglia rosa. Nibali ha perso 14 secondi, Eise dal 25. Salvatore Puccio è siciliano e partirà domani in maglia rosa al Giro. Dai Luca, scherzavo, sono Davide, ti scrivo sempre con qualcosa di divertente. Paura, e questa è paura vera. Questa è terrore, terrore veramente della telefonata alle 3 di notte. Comunque tu segnati il numero, 4-5. Sì, 4-5-3, esatto, 4, inizia per 3-9, no, lascia stare. 3-9-2 finisce per 4-5. Non esagerare, perché poi dopo sai com'è. No? Intanto vi diciamo invece che 3-4-9-2-3-8-6-6-6-6 o per mandare i vostri messaggi 824-0024 se proprio avete qualche cosa raccontarvi, se no noi vi facciamo ascoltare ovviamente Allegri. Per loro quest'anno è stata la marcia trionfale, così è stato, e quindi hanno meritato ampiamente questo scudetto. E sì, che è in buona compagnia Allegri. Sta parlando della Juve. Sì, sta parlando della Juve. Per il futuro, se c'è totale. Se ci sono amici, parenti di Salvatore. Zitta, 30 secondi. Non voglio sentire Salvatore Puccio. Ma non parla Allegri. Scusa. Come dire, monolitico, dice: io voglio rimanere lì. Ecco, vabbè, e questo ci interessa relativamente. No, volevo sapere se c'erano dei parenti, amici, conoscenti di Salvatore Puccio in ascolto. Qui il numero è 800 24 00 24, se volete contattarci per raccontare la storia di questo giovane siciliano del T-Sky maglia rosa al Giro d'Italia. Sì. Salvatore Puccio. Che Puccio. Tu conoscevi. No, cioè, figurati, io abbiamo fatto... non c'è, non so, da qualche parte adesso ti trovo la vita di Puccio. Tutto la vita di Puccio sembra veramente vabbè. Dai, Salvatore stare. Puccio. Nel frattempo traffico, dopo Salvatore Puccio. Thank you. allora Luca, tu siccome non sai nulla di cosa? Cioè, io ti chiedo per esempio chi è Salvatore Puccio, tu non sai rispondere, oggettivamente non sai rispondere, l'unico era cercare persone competenti per quanto riguarda il Giro d'Italia, gente che mastica di questo sport, no? E cercare da loro di capire un attimo chi è questo Salvatore Puccio. E ne parliamo con Mimmo Franzinelli, che è stato autore del libro Il Giro d'Italia, semplice ma molto lineare e molto chiaro. Pronto, Mimmo? Buongiorno. Ci possiamo dare del tu? Senz'altro, senza problemi. No, perché non si sa mai, rompiamo subito le distanze. Tu sai tutto di Puccio, giusto? Diciamo che io so qualcosa sulla storia del ciclismo, sugli anni eroici, e oggi so quello che sapete voi, cioè che è un giovane promettente e che oggi è stato il suo giorno fortunato. Quindi non sappiamo nulla, diciamocelo, Mimmo. Mimmo, diciamo che ti ha fatto un grande regalo Salvatore Puccio, di la verità. Perché? Sì, è quello il bello del Giro d'Italia, perché, diciamo, di sconvolgere schemi che sembrano predesignati e invece c'è la novità. Perché quando farai la seconda edizione del volume Il Giro d'Italia dai pionieri agli anni d'oro, un paragrafo almeno a Salvatore Puccio glielo dedicherai. Direi che se lo merita proprio. Senti, sì. Mimmo, tu sei tifoso di quale squadra? Della Lampre. Della Lampre di ciclismo? È un po' come Salvatore Puccio. Cioè, ma tu calcio non lo guardi neanche per scherzo? Cioè, sei contrario per motivi religiosi, insomma. Diciamo di sì. Sì, in questo passaggio. Va bene, senti, allora, in questo momento c'è persino Conte che sta parlando. Ci dici, possiamo farlo sentire soltanto per qualche secondo ai nostri ascoltatori? Per far capire che è vero? Conte, giornate d'anticipo, marciando in maniera incredibile. È stata una marcia trionfale. Vabbè, questa è più o meno le solite cose che potevamo immaginare. Però torniamo a noi, torniamo a questo libro che parla del Giro d'Italia, dai pionieri agli anni d'oro. È il primo libro storico sul Giro, non esiste la storia del ciclismo. Questo tu lo dici nell'introduzione. Diciamo che esiste sul versante meramente sportivo, non esiste sul piano culturale, sociale, popolare, politico, e qui credo stia la novità della mia ricerca. Tra l'altro, una delle cose più impressionanti su questo volume è alla fine c'è una bibliografia vastissima, 545 libri di bibliografia, cioè tu hai avuto proprio un approccio storico nel fare questa descrizione del Giro d'Italia. Esatto, e ho avuto l'incredibile fortuna di conoscere per caso, pedalando, i figli di Vincenzo Toriani, del grande patrona, e di sapere da loro dell'esistenza dell'imponente archivio paterno che nessuno aveva ancora consultato, per cui mi sono fiondato a Navate Milanese e lì mi sono sprofondato nella storia del Giro d'Italia, che è una storia fantastica e affascinante. E che cosa ti ha affascinato? Mi ha affascinato vedere all'opera due grandi organizzatori. Il primo, Armando Cugnet, che ha tenuto battesimo il Giro nel 1909, che poi ha passato il testimone a Toriani nel 1946 e poi appunto Vincenzo Toriani. Vedere l'enorme lavoro dietro le quinte, noi non ce lo raffiguriamo oggi guardando i corridori che passano, guardando la televisione, ma c'è un lavoro massacrante anche di intuizione, di programmazione, di scelta dei percorsi. È una cosa fantastica. Ma anche a livello organizzativo, anche la creazione di tappe, dei paesi. Il rapporto con gli sponsor, ci sono sempre aspetti sconosciuti che sono documentati in questo straordinario archivio. C'è proprio la storia del Giro d'Italia. Ecco, all'inizio, andiamo proprio agli albori, all'inizio ci fu quasi una corsa fra Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera per organizzare il Giro, giusto? Sì, ci fu una emulazione e vinse la Gazzetta allo sprint proprio. A quel punto il Corriere fece buon viso a cattivo gioco e si accodò nella carovana. Sì. Senti, nelle fasi iniziali del libro, proprio all'inizio del Giro d'Italia, c'è anche questa descrizione del fatto che ci fosse una forte conflittualità fra i partecipanti, addirittura scoppiavano delle risse. Com'erano i rapporti fra i ciclisti di allora? Erano un po' diversi da quelli di oggi? Sì, diciamo che l'equipe, la squadra non era così forte, un aspetto individualistico emergeva, c'erano rivalità. Il primo grande ciclista, nel senso di avere la percezione, diciamo anche un po' del culto della sua sportività, Gerbi, aveva proprio una tifoseria propria, forse è stato il primo a farsela, e non tollerava di essere battuto, lo chiamavano il diavolo rosso, e ricorreva a una serie di trucchi incredibili, a volte poi veniva anche squalificato, che so, una volta si mise d'accordo con un casellante per bloccare quel finto arrivo di un treno i suoi inseguitori, e però quella volta volle strafare, e dopo averli seminati con questo stratagemma si fece trainare da un motociclista e di conseguenza venne squalificato. Sì, era fortissima la conflittualità. Senti, guarda, abbiamo un nostro ascoltatore, anzi una nostra ascoltatrice, che sa tutto di Puccio, ho capito bene, pronto? Pronto, ragazzacci terribili. Carla, terribili? Velocissima, sì. Che cosa sai di Puccio? Puccio intanto oggi è arrivato quinto, però era migliore in classifica ieri e quindi alla maglia rosa. Sì, e questo l'abbiamo detto, però la cosa che non mi ha capito, da dove arriva? Da dove arriva Puccio? Cioè, dalla Sicilia. Tu hai seguito tutta la sua carriera, insomma. No, ma io non ho seguito, io seguo il ciclismo perché amo il ciclismo, da sempre, fin da bambina, perché mio papà seguire il ciclismo odiandolo non è bellissimo, sarebbe una tortura, però la cosa che Puccio, di Puccio sei soltanto questo, che oggi è maglia rosa. Ma no, che è un ragazzo giovane, che sicuramente ce la farà, e come se ce la farà. Grazie Carla, questo l'avevamo già intuito. Mimmo, abbiamo 2 minuti ancora per parlare ancora di questo tuo libro, da questo punto di vista. Io volevo parlare però di un aspetto molto particolare, cioè quando è che è scattato il rapporto tra ciclismo e pubblico, cioè la quantità di persone che hanno cominciato ad assistere al Giro d'Italia? Direi nel giro di 2 o 3 anni, quindi ancora nell'anteguerra. Era la scoperta di questo sport che non era assolutamente conosciuto, e poi il rapporto città-periferia-campagna con grossi problemi soprattutto al sud. È bello oggi vedere che al sud si corre tranquillamente. Ebbene, il giro per i primi 30-40 anni non riusciva ad andare al sud se non con dei disastri inenarrabili, le furature a decine, le strade proprio non, addirittura gli itinerari che non erano segnati, i ciclisti che si smarrivano, per cui c'erano le due Italie che il giro metteva in luce. Senti, allora diciamo così che tra le tante cose per cui andare ad acquistare e leggere questo libro è la bibliografia del ciclismo che c'è in fondo, sono quante? 20 pagine? Sì, ma direi anche le oltre 200 fotografie che visualizzano i personaggi, sono molte inedite, e quindi è una storia raccontata, e i giovani possono anche vedere questi personaggi che oggi sono dimenticati ma che hanno fatto la storia del ciclismo. Grazie Mimmo Franzinelli, grazie. A voi. Grazie. Il libro è Il Giro d'Italia, è edito dai pionieri agli anni d'oro, edito da Storie Feltrinelli, e nel frattempo vi diciamo anche che questo è da Evai, vi diciamo anche un'altra piccola cosa, velocissima, anche per capirci. Per quelli che insomma stanno già preparando ad assistere al giro, per quelli che sono già pronti ad andare a vedere il giro, cioè voi che andate in giro, cioè voi che andate già preparati e andate ad aspettare il giro in quel luogo, ecco, insomma, parliamone, come vi state attrezzando, come vi state organizzando. Nel frattempo, ovviamente, Conte sta dicendo la sua su tutto quello che riguarda lo scudetto. E il numero di telefono è 800-24-0024, 800-24-0024, voi che vi state preparando per il giro. Gli obiettivi, quello che ci aspetta, bisogna che tutti quanti lo conoscono, perché è facile parlare, a me chiedono la Champions, penso che credano al Presidente, però bisogna anche essere molto realisti e capire dove siamo e dove possiamo andare. Io nella mia vita sono sempre stato molto chiaro, non ho mai fatto delle promesse, non ho mai... Dai e vai. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale. E lo sanno le banche, e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura. E non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto. 800 24 0024, so che dà un po' fastidio interrompere queste canzoni, la legge dice che, tra l'altro, la legge non scritta della radiofonia dice che non bisogna mai interrompere, tra l'altro, le canzoni in italiano e soprattutto parlarci sopra, cioè, interrompere in questo senso, ovviamente. E però nella musichetta possiamo dire delle alcuni passaggi. Ricordatevi, cari ascoltatori, vorremmo da voi un elemento, un qualche cosa. Voi che vi spostate, voi che andate alle Tre Cime di Lavaredo, siete già in attesa dei tapponi dolomitici, delle scalate, delle sestriere. Non c'è questa, insomma, voi che vi spostate con la roulotte, state lì giorni e giorni in attesa, però un paio di giorni, visto che c'è la roulotte, te frega, stai lassù in qualche modo, magari la notte prima la fai, cioè, come state attrezzando, come state organizzando tutti questi viaggi? E poi ovviamente voi invece che siete particolarmente incavolati, perché ogni volta che passa il giro vi si blocca la strada, sì. Vi bloccano la strada, non si può andare in giro, non si può fare qualcosa, come tra l'altro è già successo con il nostro Davide, che ci ha già scritto e si è già lamentato. 824 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666, 349 238 6666. Davide, cerca di liberare il telefono che ti chiamiamo. Nel frattempo, mentre la gente si sta attrezzando per il Giro d'Italia, come tutti sappiamo, così questo c'è. La cosa che non vorrei è proprio questa voce che sta circolando, cioè che Conte se ne va. In realtà non è una voce che circola che Conte se ne va, è che lui non ha mai smentito che l'anno prossimo sarà ancora la Juve. Cioè, nel momento in cui i giornalisti gli facevano le domande, non è che diceva sicuramente l'anno prossimo allenerà la Juve, ha iniziato a avanzare dei dubbi, quindi questo è il problema. È che lui è un marpione, vuole tenere un po' sulle spine, ovviamente, tipo uno come Marotta. Tra Antonio Conte, il presidente, tra Antonio Conte e me, tra Antonio Conte, Paratici, tutti i nostri collaboratori, è veramente ottimo, anzi definirei la Juventus un modello vincente, visto che abbiamo vinto per 2 anni consecutivamente, e quindi i rapporti interpersonali sono veramente più che soddisfacenti. È chiaro che all'interno di questo poi c'è la voglia sempre di riconfermarsi, c'è la voglia sempre di vincere, perché nel DNA, nella storia della Juventus, c'è quello di partecipare a tutte le competizioni cercando di vincerle. Questo è un obiettivo che non vogliamo assolutamente dimenticare e vogliamo anche metterlo veramente in mente per il nostro futuro. Cosa diversa è partecipare con una griglia di avversari che possono essere sicuramente altrettanto competitivi. E che io le faccio una domanda diretta, però, a questo punto, visto che Conte ieri ha parlato dell'uomo Conte che rimarrebbe alla Juventus al 100%, e poi c'è il professionista, quindi l'uomo Conte nei rapporti con Marotta sicuramente non si discute. Ha paura di perdere il professionista o ci mette la mano sul fuoco e Conte ci sarà? No, ci mette la mano sul fuoco, questo con tutto il rispetto che va al professionista, riconosco l'uomo, e l'uomo è una persona molto corretta che vuole vincere, ed è giusto che si tenti tutti insieme di vincere. Questo è, come dicevo prima, è un dato oggettivo che deve essere assolutamente sottolineato. Bisogna spiegare sempre a quegli Sky che quando ci sono i rumori bisogna abbattere, se no c'è l'intervista, non si sente tubo. Gli investimenti fatti così sporadicamente su giocatori che magari costano dei soldi, forse poi non hanno un rendimento, è una cosa sbagliata. Per cui assieme alla società, assieme agli azionisti... Vabbè, basta. Cioè, non si può seguire l'intervista con sotto gente che sta strombazzando. Mica sei un collegamento di dai vai con Torino, scusa. La cosa che riusciamo a cogliere dalle immagini che arrivano da Piazza Castello è questo clima d'attesa, nel senso che i tifosi si aspettano che finalmente parti questo famoso pullman con i giocatori sopra. Sono lì tutti fermi con le bandiere, non c'è movimento, addirittura sono fermi sul marciapiede, mentre la strada è quasi completamente vuota. C'è un ombrellone di quelli che vendono tarocchi, le birra, sì, sai, dentro, sì, dentro le vaschette di plastica col ghiaccio dentro. Scusa, magari è andato via il frastuono. Assolutamente sì, il fatto che meglio, ci incontri con lui nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, del resto fa parte di quelle dinamiche tipiche del mondo del calcio, no, quando raggiungi un obiettivo e ti vuoi confrontare con colui il quale è stato un leader di questo, di questa vittoria. Diciamo festa un po' così, un po' sottotono, sottotono. Sai cos'è? È che sono troppo abituati, sì, anche Piazza San Carlo, hanno inquadrato Piazza San Carlo, sì, praticamente non quasi deserta, secondo me beh, adesso non esagerare, cioè quasi deserta, no, diciamo, quasi piena, no, ampi spazi vuoti, sì, direi quasi piena in questo caso. Beh, sì, dipende da come vedi il bicchiere. Infatti, per uno che non è abituato agli scudetti, che non riesce a descrivere, poi quando strade, i festeggiamenti per gli scudetti. No, la cosa vera è che probabilmente c'è ancora una grande fetta che è all'interno dello stadio in questo passaggio. Quindi, che c'è che non va? No, stavo vedendo che maglia aveva la figlia di Conte, perché aveva un nome dietro, però non sono riuscito a riconoscerlo. Avevo la curiosità di sa, perché mi sembrava di aver letto Seedorf, però non capivo che cosa ci fosse scritto nella maglia, cioè, di sulla maglia di esatto. Senti, infatti, fai una cosa, ascolta il traffico, poi ne parliamo. Luca, pronto? Rieccoci, adesso è tutta un'altra cosa. Ci siamo sentiti quasi un'ora fa. Nel frattempo, Piazza San Carlo e Piazza Castello sono state letteralmente invasi dai tifosi bianconeri. Certo, non siamo ai livelli dei 400.000 di cui mi raccontava qualcuno l'anno scorso, perché diciamo questa vittoria è un po' più tiepida. No, però. Attento. Ha annunciato ormai da qualche mese. Attento a non farti confondere, perché in realtà i 400.000 erano alla fine, non quando hanno vinto lo scudetto. Cioè c'è stato, si è vinto lo scudetto, si è atteso uno o due domeniche, mi pare, qualcosa del genere, sì, e poi c'è stata la festa. Vedrai, il 19 saranno di nuovo lì 400.000, questa è la cosa vera. C'è da dire che il 19, se non sbaglio, giocheranno tutta le partite la sera, alle 20.45, non al pomeriggio. Quindi giocheranno tutta la sera e quindi sarà una grande serata. Esatto. Ecco, questo è un po' una festa in notturna. Senti Luca, però c'è qualcuno anche nei nostri ascoltatori che tenta di agitare, tardi, e ci mette ansia. Tra l'altro Angelo dice: dovreste sentire il casino che c'è in periferia, possiamo immaginarlo, e stanno sempre parlando di Torino. Però Luca, il terrore è che circola questa voce, ma Conte resta o non resta? Perché questo è il vero problema. Ci sono queste... Andiamo subito a sentire i tifosi. Vi devo dire che un'altra maglietta, una delle più magliette, delle magliette più indossate, questa che ritrae appunto Conte in una sua tipica atteggiamento in panchina con la scritta scatenata all'inferno. Adesso vediamo i tifosi cosa ne pensano su questo. Sì. Ciao, scusate, siamo in diretta su Radio 24. Oh. Mi dispiacerebbe rovinarvi la festa, ma si dice che Conte stia già preparando le valigie dopo aver... Assolutamente no, al massimo si sposa e rimane da noi a festeggiare. Ah. Non se ne andrà mai, fidati. Sicuro? Tu vorresti giurare fedeltà al tuo amico. All'allenatore, assolutamente sì. Qual è il programma per questa sera? Qui poi stiamo scaldando, no? Adesso ci scaldiamo. Comunque domani non lavoriamo lo stesso. Ah, cioè tu mi hai per poter proseguire festeggiamenti anche lui. Sì, sarà notte lunga. Non c'è da fare casino, ma per forza. Ecco, questo... Un anno te lo merita. Ecco, Luca... Questo è per tranquillizzare un po' i cittadini di Torino, no? Che anche per questa notte non c'è trippa, insomma, cioè... Sì, soprattutto così si applicano... Sì, ma queste trombette non possiamo abbatterle, non so, cioè... Non vuoi bloccare la festa bianconera? No, per carità, no, facciamo questa festa, cioè bisogna fare tutto sto baccano, un po' di sobrietà, un po' di Savoia che circoli un po' anche nella piazza. Intanto insomma, diamo una notizia, perché nei sotterranei dello stadio di Torino è pronto il pullman Juve campione, che è stato proprio ridipinto, il pullman scoperto. Fra un po' saliranno i giocatori che in questo momento sono in campo, e sulla facciata laterale generale del Pullman c'è un grande scudetto con scritto 31 e Victory Campioni d'Italia 2012-2013. Questo è un tweet che arriva direttamente dalla società della Juventus. Quindi caro Luca, mi sa che ti beccherai il Pullman scoperto in qualche modo, la festa anche già col Pullman scoperto. Pronto Luca? Siamo qui ad aspettarlo, scusate, ma nonostante la mia notevole distanza ormai dal cavallo di Piazza San Carlo, che è letteralmente circondato, l'effetto Juventus sta aumentando, e sta aumentando anche il coro Juve, proprio perché Missione, che è arrivata da Piazza Castello e che ha attraversato parte di via Roma con al suo interno un'immensa bancherone bianconera, è arrivata in questo momento, e anzi due ragazzi con l'intero con un bandierone immenso che è il 4 metri per 4, ha scalato in questo momento la statua del castello, stanno incitando migliaia di tifosi che sono sì, però anche te, però non puoi avere questo tono così depresso perché non tifi Juve. Cioè, capito? Io capisco che hai il tono distaccato del cronista, un po' scocciato, diciamocelo Luca. Non sono toni diciamo che no, perché ormai sono da un paio d'ore da Torino, bianco e nero, ormai mi sono un po' passati, cioè, vorresti un po' di colore. Erano colori che stanno scippati, cioè, però tutto questo bianco e nero, perché per me che non sono abituato, mi hanno un po' destabilizzato. Ho capito. Va bene, Luca. Noi ci sentiamo ancora più tardi, prima della chiusura. Grazie. A dopo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Senti, ti porto in un altro mondo. Segui, abbiamo pochissimi minuti, sì. Però ci teniamo molto a raccontare anche, come dire, un'altra gara, una gara un po' particolare, ma pur sempre gara, pur sempre competitiva in qualche modo. Diciamo che non è solo calcio. Stiamo parlando di tango, come avrai intuito, no? Non ci vuole molto, sì, da questo punto, diciamo, di vista. Ci sono arrivato pure io che era tango. Secondo, figurati, campionato italiano di tango, giusto? Giusto, questo? Giusto. Ne parliamo con Barbara Cicero. Pronto, Barbara? Sì, ciao, buonasera, buonasera. Come va? Siamo arrivati alla fine di questa faticosissima edizione dei campionati italiani di tango qui a, sì, Terracina. Perché da quando avete iniziato? Abbiamo iniziato mercoledì, e con le fasi classificatorie oggi ci sono le grandi finali al Teatro Traiano, dove è quasi tutto pronto per iniziare. A che ora inizia? Spettacolo. Inizia alle 19. Alle 19. E verranno decretati i nuovi campioni italiani di tango, che andranno direttamente ai mondiali di Buenos Aires a rappresentarci, gareggiando alle semifinali quest'estate ad agosto. Scusa, senti, una curiosità, i mondiali si fa solo e sempre in Argentina di tango, oppure ruotano a livello mondiale? No, sono sempre a Buenos Aires, sempre le ultime due settimane di agosto e sempre a Buenos che Aires. Che storia, dai, che domanda è, scusa. No, vabbè, ma cosa facciamo a Scandicci? Non ho capito, cioè, il mondiale di tango a Scandicci. No, magari. A Stoccolma. Anche a Scandicci sicuramente ci sarà un sacco di gente che balla tango. Bravo, diglielo, diglielo. Certo, ma lì fanno però le gare di borgata, come dire, no, tra virgolette. Altro è il finale mondiale, non è che vai a Stoccolma a fare i finali mondiali, vai a Buenos Aires. Esatto. Ecco, gli atleti italiani come sono messi? Cioè, a livello... Bene. No? Certo? Gli italiani sono fortissimi, a Buenos Aires ci sono sempre degli italiani che arrivano in finale. Giochiamo in casa, diciamolo, no? Beh sì, perché il tango ha origine dalla immigrazione italiana che c'è stata da fine 800 fino agli anni 50-60, quindi i maggiori compositori di tango hanno tutti dei cognomi di derivazione italiana. Vabbè, ma chi c'è stasera? Chi è che c'è stasera che rischia di diventare campione d'Italia? Stasera sarà una bella lotta, perché sono fortissimi ballerini che si sono presentati in questa edizione. E poi abbiamo pure i campioni del mondo, abbiamo i campioni europei. Ma se non diciamo dei nomi, restiamo un po' vaghi, Barbara, cioè sei troppo vaga, devi dirci dei nomi. Ma dei nomi di partecipanti, ma io ve li posso anche dire, Gianni Pinotto, ma non li conosce nessuno. Sì, però noi normalmente quando parliamo di calcio, anche di Serie C, diciamo dei nomi per dire che probabilmente può darsi che questo qua vincerà. Comunque, se non vuoi dirli, noi ci rimettiamo soltanto a io dire che c'è... Io non voglio sbilanciare, diciamo. Non ho detto che devi dire chi è che vince, devi soltanto dirci chi è che partecipa anche, che secondo te i più forti... Diciamo che ci sono delle coppie romane molto forti, c'è una coppia di Frosinone molto forte per una delle categorie. Mai intervista è stata più reticente, voglio dire. Cioè, inutile, sembra del tutto inutile intervistarti, se non ci dici neanche i nomi. Barbara, però sappiamo che oggi c'è un campionato italiano di tango. Ti ringraziamo, è stato bello, ciao, grazie. E ciao, andiamo con grazie, grazie. A voi. Pubblicità. Cioè, ma se io avessi così nel fantacalcio oggi Close, ecco, lo sapevo, no, avresti completamente stravolto quelle, cioè, che sono le graduatorie e, cioè, le classifiche del fantacalcio. Allora, parliamo di questa cosa, esatto. Perché veramente poi sembra che passa così in secondo piano la vittoria della Juve, l'ipotetico abbandono di Conte, dove andrà Conte, perché poi dove va Conte, scusa, cioè, se dovesse andare via, dove può andare? Ma dicevano Conte, che era stato richiesto dal Chelsea. Dal Chelsea, esatto, però poi in realtà al Chelsea probabilmente va Mourinho, Comunque si era parlato anche del Manchester City nel momento in cui non avessero dovuto rinnovare il contratto Conte a Mancini. Conte al Real Madrid. No, Real Madrid ci va Ancelotti, quindi... Un'altra delle ipotesi poteva essere addirittura al Paris Saint-Germain. Visto... Conte. Esatto, Conte al Paris Saint-Germain. Quindi Mourinho al Chelsea. Mourinho al Chelsea, Ancelotti al Real Madrid e Conte al Paris Saint-Germain. Dov'è? Chi è che manca qualcosa? Manca la Juventus, che non manca l'allenatore. E questo è il problema. Manca la Juventus. Mi sembrava strana questa cosa qua. A un certo punto c'è qualcosa che non quadra. Cioè, esatto. Ed è che ci portiamo a casa. Guarda, si libera un posto, perché in tutta questa triangolazione, che in realtà è un quadrato, si libera un posto, che è quello dell'attuale allenatore del Chelsea, che potrebbe venire alla Juve. Assolutamente. Rafa Benitez. Sì, ecco. Perché perdete tempo ad intervistare persone a cui non interessa essere intervistate? Perché fin quando non facciamo la domanda non sappiamo che loro non sono interessate. Cioè, noi possiamo... Chi è che vuole essere intervistato? Chi è che si è preparato per l'interrogazione? Mica facciamo le interrogazioni programmate, cioè le interviste programmate. Cioè, questo è un SMS sul 349-238-6666. Ma che modi sono, cioè, voglio dire, ma ragazzi, cioè, non è che, cioè, si va lì, si chiede, no? Cioè, cosa ne pensi? No? Vai via, vecchia Bartuccia, e capisci subito in quel caso che non vuoi essere intervistato, tra virgolette. Senti, torniamo a parlare di Close, perché la cinquina di Close è... Cinquina. Esatto, la cinquina... 5 per 3 15 più 8 8 9 gli dai. Beh, lì puoi anche dargli 9. Gli dai 9. 24 punti. Secondo me sono 24 punti soltanto quel giocatore, esatto, che ce l'ha al fantacalcio, alzi la mano e poi dopo ne parliamo. Vabbè. Ecco, la cinquina di Close arriva 27 anni dopo l'ultima cinquina, che era stata quella di Roberto Pruzzo della Roma, te lo ricordi? No. Era stata nel 1900... No, mi ricordo Pruzzo, non mi ricordo, certo, la cinquina. 16 cioè... febbraio 1986 all'Avellino, era stata l'ultima cinquina in Serie A. Poi ce n'erano state altre 10 di cinquina in tutto il campionato di Serie A, però il record lo detengono due giocatori che hanno fatto 6 gol. Nel 1933 Piola, Silvio Piola, vabbè, quello ce lo aspettiamo, sai? Sì. Ma Sivori nel 1961, questi sono i due giocatori che hanno segnato più gol. 6 gol nel campionato di Serie A, mentre di cinquina, quindi ce ne sono state 12 in tutto, di cui l'ultima oggi di Close in Lazio-Bologna, quella precedente nel 1986 di Roberto Pruzzo della Roma sull'Avellino. Sì, ecco. Dati statistici. No, no, mi stai facendo abbioccare quasi come l'intervista all'allenatore del Sassuolo. Era, cioè, molto dire, interessante, sì, c'era gente che voleva sapere. Ecco, voglio dire soltanto, attenzione, perché adesso c'è una retorica di immagini a proposito di comunicazione, sì, su Sky, di quelle veramente da brivido. Cioè, c'è già stata un piccolo avvisaglia, in questo caso, in una specie di piccolo spot dedicato a Conte, con lui che cammina e intorno a sé tutte le immagini, lui cammina. Serio, sai, serio? Come, no, cioè, ma impettito un po'? No, tranquillo? No. Anche un po' così, no? Una camminata sciolta, però rallenti. Sì, ma sfondo? Lo sfondo sono tutte le immagini di lui che urla, lui che incita, lui che fa questa cosa. Mi sono ben guardato ad ascoltare la musica, che deve essere almeno quella del gladiatore come minimo, perché sennò... Ma girata apposta questa immagine, cioè gli hanno detto a Conte tu cammina, eccetera. Sono sconvolto da questa cosa. Diamo però dei risultati, diamo comunque un giro di panorama di tutto quello che è accaduto quest'oggi per quanto riguarda i dati e i risultati per quelli che sono interessati non soltanto allo scudetto della Juve, oppure qualcuno che ha deciso non voglio più ascoltare, non voglio sentire nulla di calcio. Ebbene no. No, lo sentite. Iniziamo da Udinese-Sampdoria che oggi è finita 3-1, era la partita delle 12.30, i tre gol dell'Udinese, doppietta di Di Natale e Muriel, quello della Sampdoria di Eder. Tripletta di Berghessio invece in Catania-Siena, 3-0 il risultato finale, tre gol di Berghessio, si è portata a casa il pallone. Genoa-Pescara è finita 4-1 con doppietta di Borriello, Floro Flores, Bertolacci, mentre per il Pescara ha segnato Sculli, si era sul 2-0 quindi in quel momento poi 2-1. La Juventus l'abbiamo già detto a Iosa, ha vinto 1-0 sul Palermo con il rigore l'hai detto, a Iosa. Iosa gli abbiamo detto Iosa e poi era molto contento Iosa. No, ha mandato un SMS. Rigore di Vidal, Juventus Palermo 1-0. Il Milan ha vinto sul Torino 1-0 grazie al gol di Balotelli su assist di Mexes. Parma Atalanta 2-0, Parolo e Biabiani. E infine Lazio Bologna 6-0, 5 gol l'abbiamo già spiegato, gli ha segnati Close. Il sesto, un bellissimo tiro da 30 metri di Hernanes che si è infilato proprio lì dove la mamma mette la marmellata, lì proprio lì, e mette la mamma la marmellata, no lì, no mi piaceva la marmellata, la Nutella, dove la mamma mette la Nutella, già meglio, ecco, la Nutella, esatto, lì dove la mamma mette là in alto, sì, nel, proprio certo, nell'angolino là in alto l'ha messa lì Hernanes, sì. 6-0 della Lazio su Bologna. Ricordiamo stasera Napoli-Inter alle 20.45, c'è anche una notizia perché pare che Rocchi abbia avuto un risentimento muscolare nel riscaldamento, quindi mamma non giocherà. Mamma mia che notizia, no è perché sono finiti gli attaccanti, cioè, dell'Inter, no, vabbè, cioè gioca con 5 difensori, 5 centrocampisti e 0 attaccanti l'Inter stasera, vabbè. Cioè, perché non era, è l'ultimo, tra l'altro i difensori non è che sono messi bene anche loro, no lo so, però almeno ce li ha, cioè, sì, ce li ha. Ranocchia è un difensore, poi Jonathan è un difensore, Zanetti dove lo mettiamo? No, Zanetti è davanti alla televisione al megaschermo, c'è cioè un 47.000 pollici, sì, plasma, però vabbè adesso già, ecco. Prendi fiato, sì, anche perché in realtà le immagini che noi vediamo, lo dico anche a Luca che non riesce a sentirci in questo momento, lui ormai sta già festeggiando con lo champagne in Piazza Castello, sì, il buon Luca Cancellara. Davvero? Sì, in qualche modo. Scusa, sì, Massivo riassegnato alla primavera dell'Inter. Cioè? Questa è battuta? No, ma credo che sia stata quella Juventus-Inter in cui l'Inter si presentò per protesta con la primavera in casa della Juve, è vero, quindi sei gol segnati da Sivori furono in occasione di quella partita in cui l'Inter si presentò con la primavera. Tra l'altro nella primavera dell'Inter l'Inter esordiva, mi sembra, Sandro Mazzola, il figlio di Mazzola in quell'occasione, quindi è vero statisticamente. Comunque Sivori e Silvio Piola sono gli uniti due giocatori che hanno segnato 6 gol nel campionato dopo la cinquina di Close di oggi della Lazio con il Bologna. Dovremmo avere Luca Cancellara, se non sbaglio, in questo caso. Luca! Eccomi! Tu sei... Dove sei andato? Ad un bar adesso? No, Scherzavo. Non alzare la voce, ci sentiamo benissimo. Adesso ti... Pensavo di essere isolato per un momento di effetto Cattutella, ma come potete capire da ogni angolo invece... Sì, ma in una parallela, cioè tanto è. Senti Luca, noi a questo punto, non sentendo nulla di te, ti diamo la possibilità di andare in una parallela per poterci poi descrivere quello che tu hai visto finora e quindi in questo caso, perché così poi dopo ci possiamo sentire. Grazie per la risposta che non c'è in questo caso perché l'abbiamo già tagliato. Ciao Luca, lasciati andare perché dobbiamo parlare con Damiano Tommasi, proprio lui. Ebbene sì, siamo riusciti in questo caso a recuperare. Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Una buonasera, Damiano Tommasi. Pronto? Buonasera a voi. Come va, presidente? Tutto bene? È già caduto. Ma come? Ci abbiamo messo 2 ore per cercarlo. No. Sì, qua. Sì, è caduto Damiano, cioè è caduto alla telefonata. Sì, no, lui no, non è caduto. Diciamo, dall'eco che si sentiva, io me lo immagino seduto sul divano nella sala di casa sua. Così era la sensazione che avevo io, sì, dall'eco di Damiano Tommasi. Ma perché noi vogliamo parlare con Damiano Tommasi? Lo diciamo, poi magari non ci parleremo insieme a Damiano Tommasi, però parliamone in questo caso. Pronto, ecco, Tommasi? Pronto, presidente, mi sente? Sì. È un piacere. È un piacere risentirla intanto. Come sta? Sta bene? Bene, grazie. Ecco. Immagino non stia festeggiando lo scudetto della Juventus, no, per ovvi motivi, però insomma, in questo caso era soltanto per parlare non di questo, ma di quello che è stato, che avete deciso o quello che non avete deciso in settimana, giusto? Esatto, c'è stata l'assemblea generale della Socalciatori lunedì scorso, sono state prese alcune decisioni anche abbastanza importanti per quanto riguarda il futuro del mondo dei calciatori, giusto? Ma più che altro abbiamo discusso di alcune problematiche che sono in piedi tra noi e le leghe, e quindi abbiamo delineato un po' quali sono le nostre posizioni in merito ad alcuni argomenti abbastanza delicati. Ecco, ricordiamo che 2 anni fa, se non sbaglio, c'era stato anche uno sciopero, lo spostamento in avanti della prima giornata di campionato. C'è il rischio che il problema con le leghe possa portare a una decisione di questo tipo? Ma non credo, c'è ancora da rinnovare l'accordo collettivo che a scadenza 30 giugno dovremo sederci per discutere. Scadenza triennale con alcune modifiche, però insomma, abbiamo visto che in questi 2 anni l'accordo collettivo così come era stato firmato non ha creato problemi e quindi ci auguriamo insomma che non ce ne siano, sicuramente però bisognerà farlo e questo entro la fine del mese di giugno Lega di A permettendo. Ecco, per quanto riguarda la Serie B si è parlato di un salary cap, cioè di un tetto salariale per quanto riguarda i giocatori, voi siete contrari a questo, è vero? Noi siamo contrari al metodo per arrivare a una sostenibilità della categoria, insomma così facendo non si va a incidere sui costi che sono aziendalmente importanti, visto che i salari e i compensi dei calciatori riguardano più o meno la metà dei costi di una società e soprattutto il fatto di andare a incidere singolarmente sui contratti crea delle difficoltà perché oltre ad abbassare probabilmente il livello tecnico della categoria, rischia di non raggiungere l'obiettivo che è quello della sostenibilità. Quindi la nostra idea è quella di discutere, di trovare una soluzione che possa essere effettivamente funzionale all'abbassamento dei costi che oggi con questo mercato non sono più sostenibili per parecchie squadre di Serie B, ragionando magari su un costo complessivo oltre il quale si può essere penalizzati. Ecco, c'è un argomento che noi abbiamo già trattato in qualche modo e che è questo campionato delle riserve, che in qualche modo ci affascina, ci interessa e ci sembra particolarmente una cosa particolarmente intelligente. Però scopriamo appunto che man mano che si va avanti, in realtà queste squadre che possono far giocare e vogliono fare un campionato delle riserve, che dovrebbe giocare il lunedì, no? Nella sostanza, cioè quelli che non hanno giocato della Serie A, in realtà la Serie B non li vuole e poi dopodiché la Lega Pro, no, anche loro non li vogliono e adesso stiamo andando verso la Serie D? Dove li collocheremo questo campionato? In questo caso non siamo sindacalmente interessati, siamo interessati perché siamo componente federale come atleti e le nostre proposte sono quelle di ragionare su un campionato, su una squadra che possa partecipare a un campionato professionistico, un campionato comunque con classifica riservata a queste squadre riservate ai giovani, quindi con un tetto di età, che siano squadre di seconde squadre di squadre di Serie A, come un po' come avviene in Spagna, proprio per dare spazio ai giovani in un ambiente che si conosce e magari avere la possibilità durante il campionato di essere inseriti progressivamente nella squadra A. Ovviamente ci sono parecchi problemi perché andare a toccare le varie leghe non è facile, in Italia abbiamo la particolarità di avere tre diverse leghe professionistiche e questo fa sì che qualsiasi accordo sia difficile perché ogni lega vuole dire la sua. Non sarà sicuramente facile, il campionato riserve concepito come in Inghilterra è meno diretto ai giovani perché riguarda i giocatori che non trovano spazio durante la domenica. addirittura insomma, le comproprietà e quindi la possibilità delle società di avere più proprietà tra le squadre professionistiche si era già provato in anni passati, ma si è visto che sono solo escamotage per gestire costi e non per formare giovani. Senta, l'ultima domanda. L'ultima domanda, il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori può dire qualche cosa sullo scudetto della Juve? Certo, fare i complimenti, hanno meritato, penso che non ci siano dubbi che hanno dimostrato di essere la squadra migliore d'Italia e vincerlo con anticipo sicuramente da merito a una squadra, a un gruppo, a una società che stanno lavorando bene già da due anni. Molto presidente, Damiano Tommasi. Noi l'avevamo intervistato quando era calciatore, era più un po', più sciolto. Adesso è molto presidente. La ringraziamo moltissimo, presidente. Grazie, a risentirci. A presto. Grazie a voi, buona giornata. Andiamo dite al succo, fuori il trucco. Qualcuno sta parando, è il grande vecchio che soffia nel fischietto con il telecomando. Allora balla per me, Bellina, balla. Che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me, Bellina, balla. Sulla mia spalla dai sfogo al tuo dolore. Balla per me, Bellina, balla. A lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Balla a me, Bellina, balla. Che sia cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Luca Cancellara, potresti dirci qualche cosa di bello? Ah, di bello, tipo che per te che la Juve ha vinto il campionato 30-31, capito bene, però comunque è campione d'Italia quest'oggi. Sì, guarda, ascolta Luca, o sono 29 o sono 31, capito? Adesso chiediamolo subito a un tifoso che ha la maglia. Bravo, 21 della prima bravo. In diretta su Dai e Vai Radio 24. Ma quanti scudetti vince oggi la Juve? 31, no? Ah, 31, mi conferma che c'è 31. Perché lei mi dice che maglietà Chiellini, 3 autografata dal vivo, tra l'altro. Quando è che il Chiellini gli ha dato questa maglia? Ha consegnato mia mano l'anno scorso quando abbiamo vinto il 30. Quindi, secondo anche i suoi calcoli, quest'oggi siamo al 31. 31, forse anche 32. Beh, adesso non esageriamo. È battuta questa, eh? Comunque, torno a casa. Allora, voglio dire che questa è la domanda peggiore della diretta. Mi domandano perché il motivo è molto semplice, ho tifato la Juve. Hai visto? Ecco, facile. Ecco. Era canzoncina. No, volevo dire che questi due signori capitalisti sono padre di famiglia, vorrei capire, domani state a casa, l'ufficio è chiuso, sono tutti in ufficio con la maglia e senza voce. E senza voce, perché? Il motivo è molto semplice. Ti fatto no, la... no ma scusa, ma che modi sono? Non si taglia così le interviste. Sì, vabbè, me la canta di volte la sua memoria, se volete che la faccio risentire. No. Poi ce la canti però, prima di chiudere. Ecco. No, alcune voci che stanno rincorrendo in questi ultimi vorrebbero Conte già pronto con la valigia. Non c'è nessun problema, noi diciamo anche se Conte ha la valigia, perché c'è prima la Juve e poi c'è Conte. Però al posto di Conte Fabio Capello. Sì, lo scudetto 32 come lei già spera. Certamente. Assolutamente, ecco. Sì. Questo ok, lascialo andare, modo. Liberalo, dai. No, mi metto a correre perché stiamo per ricominciare a cantare la canzoncina. Sì, lascialo andare libero e selvaggio, vediamo un po'. Ma tu adesso ti sei spostato dal centro, giusto? Sì, ditemi perché non sentite più l'effetto di Bruxelles, ecco. Perché lo stesso amico ci ha fatto notare, ci ha ricordato che la vuvuzela oggi non manca. Io sono un po' in una zona un po' più laterale, tranquilla. Sì, comunque guarda, noi dalle immagini possiamo dirti tranquillamente che intanto il pullman è ancora fermo allo stadio e si sta lentamente caricando proprio in questo momento. Anzi, i giocatori sono anche abbastanza annoiati quelli sopra, perché c'è Vucinic che è salito 40 minuti fa sul pullman con la birra in mano. Tre quarti della piazza di San Carlo è piena, abbastanza piena ovviamente anche Piazza Castello, dove c'era tra l'altro il megaschermo, ma la cosa che ci ha un po' così presi un po' la sprovvista vista e che anche Piazza Vittorio è bella piena, carica da quel punto di vista lì. Quindi questo ecco, è... Posso farvi una domanda? Sì, voglio capire, voi che avete le mani davanti, sì, tra quante ore noi dovremmo aspettarci il pullman scoperto? Guarda, non meno... Allora, intanto andrà un po' più veloce dell'anno scorso quando c'erano i 400.000, però direi che almeno ancora un'altra oretta e mezza devi aspettare. Coca-Cola. Puoi andarti a mangiarti qualsiasi cosa e senza far pubblicità, però, mi raccomando, in questo caso. Senti, lo so che come ti invidio, caro il mio Luca Cancellara, noi ti ringraziamo, resta lì, ne ci sentiremo fuori onda e forse ci sentiremo anche questa sera. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Luca Cancellara, inviato di Dai e Vai, Radio 24, in quel di Torino, con le vuvuzela. Sì, scusa, non so se hai sentito, a più tardi lo sento un po' più rilassato e anche leggermente liberato nel frattempo. Sì, c'è la voce rotta dall'emozione. Come tra l'altro libereremo Pietro Lacorta e Roberto Scaltriti, che ci hanno guidato il mixer, hanno dato, come dire, hanno usato i cursori per potersi mandare in onda frasi inconsulte e urla starnazzanti da Torino. Hanno dato suono alla radio. Sì, ovviamente in questo caso noi ringraziamo anche Luca Cancellara, che è stato laggiù, no? In questo caso è... Giorgio De Luca, il nostro assistente a programma, che oggi ha avuto da lavorare ben tanto, visto che c'è stato qualche problema di collegamento, ma poi abbiamo portato il risultato a termine. Grazie a Giorgio De Luca. Vabbè, nel frattempo io vorrei anche ringraziare te, ma non so se è il caso. No, non è il caso. Guarda, non è il caso. Io ti ringrazio perché sei venuto in onda con la maglia bianconera. Questo l'ho apprezzato, sì, molto. Però adesso stasera con la sciarpa non so se è il caso di portarla. Comunque la vedrò che cosa fare. Tornerete questa sera a sentirci alle 22 oppure sarete in piazza a festeggiare la Juventus. Tutti in macchina, queste cose qua. Noi parleremo di Pantani questa sera, vi faremo anche ascoltare qualche cosa. Sono le 18:55 e 40 secondi, questa è Dai e Vai, non è solo calcio. Grazie, a risentirci a questa sera 22.